Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. 11 aprile 1981. Ieri ho passato un esame barriera della mia facoltà, di quelli che fanno selezione. Ma non è per questo che sono eccitato oggi. In realtà oggi è anche il mio 22esimo compleanno, ma nemmeno questo è il motivo della mia agitazione. Sono su di giri perché sto per assistere per la prima volta al concerto di Bruce Springsteen. Mi chiamo Davide, 53 anni, sposato con Irene da 7 anni. Sono nato a Varese, lavoro a Milano dopo aver lavorato anche a Roma e negli Stati Uniti e vivo a Monza. Dirigente in una multinazionale, come si suol dire, e molto appassionato di Springsteen, come avete capito. Ed è esattamente questo quello che mi ha stupito ieri sera a San Siro. È che la voce e l'immagine e il tono delle persone che c'erano erano esattamente quelli di Davide. Cioè, quando sono arrivato poteva essere un bel esempio dell'ascoltatore di Radio 24. Una persona pacata, una persona che ha un lavoro di livello, non lo so, imprenditoriale. Insomma, quello che si dice quando si pensa a uno che ascolta questa radio. Una persona sopra attorno ai 50 anni, che è preparata, eccetera. E che ha questo tono pacato, insomma, che vuole sapere le cose, che le sa e le conosce. E questa è stata la sensazione. Poi, man mano che il concerto è iniziato ed è proseguito, io ero con mia madre, peraltro. Io ho 37 anni, prima volta a un concerto di San Siro, mia madre 60... Boh, ne ha uno più di Springsteen, quindi 63, mi pare. 64, vabbè, tant'è. Ho già detto tant'è subito, pronti via. È stata questa la sensazione. C'erano persone della generazione di mia mamma che alla fine sono uscite trasfigurate. Oggi si parla del concerto di Springsteen, non del concerto di ieri, non solo perlomeno, nel senso che il racconto di Davide parla del primo concerto che ha visto di Bruce Springsteen. Era il 1981 e poi, come lui stesso ha scritto, da allora ne ha visti oltre 30. Ci deve essere qualcosa che muove le persone ad andare a vedere Springsteen, ma anche gli U2, ma anche Madonna, ma anche Dalle De Gregori, come mi scrivono sul profilo Facebook. E questo è quello che voglio sapere oggi. Voglio sapere qual è stato il concerto che decidete voi come e perché vi ha cambiato la vita. 800240024 anche al telefono, oppure 349-238-6666 via SMS per raccontarmi qual è stato quel concerto e perché. Alessandro, Elton John, piano solo a Würzburg, estate del 2001. Stefania, U2, San Siro, 20 luglio 2005. Studiavo sul prato di San Siro sotto il sole cocente di mezzogiorno aspettando l'inizio del concerto perché l'indomani avevo l'ultimo di una lunga serie di selezioni per una multinazionale. Concerto stupendo e la selezione fu superata alla grande. Ricordo ancora il ronzio nelle orecchie mentre parlavo col direttore del personale. E poi ancora Francesca, anch'io ho visto Springsteen con mia mamma l'estate del 2009 a Torino. E poi Carlitos, sono uno dei 100.000 che il 27 giugno del 1980 era allo stadio di San Siro per il concerto di Bob Marley. Allora avevo 14 anni e avevo dentro tanta smania di vivere. Spesso ho un flashback di quel concerto con Marley che saltellava per il palco mentre tutto lo stadio ballava e nell'aria un fortissimo odore di marijuana. E poi ancora Jerry, Pearl Jam a Roma nel 96, avevo 16 anni. Chiara, sono due, Pink Floyd, Arena di Verona 89, Nick Cave, Teatro degli Arcimboldi di Milano 2004. Qualunque sia stato il vostro concerto, cioè il concerto che vi ha cambiato la vita. 800240024 349 238 6666. Facciamo un passo indietro, torniamo a oltre 30 anni fa e poi a ieri sera. 11 aprile 1981, ho passato un esame barriera della mia facoltà, ma non è per questo che sono eccitato. Oggi è anche il mio 22esimo compleanno, ma nemmeno questo è il motivo della mia agitazione. Sono su di giri perché sto per salire su un pullman che, partendo dalla mia città, Varese, mi porterà a Zurigo, precisamente all'Allenstadion, per assistere per la prima volta al concerto di Bruce Springsteen. La passione in realtà me l'ha trasferita mio fratello, che lavorava in una radio privata a Varese negli anni 70. Abbiamo incominciato a sentire i dischi di questo cantante che rimaneva misterioso, nel senso che non veniva mai in Europa. I suoi concerti erano considerati mitici, 4 ore, 5 ore di concerto, fino a quando appunto nell'aprile dell'81 siamo riusciti a vederlo per la prima volta a Zurigo e da lì è scoccata la fatidica scintilla. Il viaggio è organizzato da una radio locale, concorrente di quelle dove lavorano mio fratello e tanti amici presenti oggi sul pullman. Il concerto però è circondato da una coltre di mistero che per il boss nell'81 è normale. Da giorni si dice che il concerto in realtà sia stato cancellato e che Bruce sia volato negli States, interrompendo il tour europeo. Con tutta evidenza questo è il vero motivo della mia agitazione, che nasconde una profonda paura. Insomma, e che cavolo, quello che potrebbe essere di gran lunga il mio migliore compleanno, esame passato e primo concerto del boss, è in pericolo. E la sensazione di inevitabile delusione è dominante. Il viaggio è tranquillo, ma sicuramente non regna l'allegria che normalmente una situazione del genere dovrebbe portare con sé. E più o meno tutti cercano di esorcizzare la comune paura con un «Ma dai, non possono averlo annullato, non possono averlo fatto così senza dire nulla». Sì, è vero, però è già successo 3 anni fa, a Barcellona. Ma no, non è vero, era a Madrid e c'è stato un comunicato ufficiale. Insomma, tutti cercano di mostrarsi informati e di indirizzare il mood verso l'ottimismo o al massimo lo scaramantico pessimismo. Entriamo infine in Zurigo e notiamo che in tutta la città, ovviamente molto pulita e svizzera, non è appeso alcun manifesto relativo al concerto, che diventa ogni minuto più fantomatico. L'autista sbaglia strada un paio di volte e si sono fatte ormai le 2 del pomeriggio e il concerto, se ci sarà, è previsto alle 7 di sera. Anche qui orario davvero svizzero, che tiene conto della leggendaria lunghezza dei concerti del boss in quel periodo. Ora siamo nella zona dell'Allen Stadion e vediamo 3 pullman da Firenze con il logo Garmine Promoter for Bruce. Un po' di speranza riscalda i cuori, ma ancora nessuna certezza. Finalmente, in vicinanza del palazzetto, si vedono un paio di tir con la scintillante e rassicurante scritta Bruce Springsteen and the E Street Band. È fatta, ci siamo e soprattutto il concerto c'è. Alle 16.30 dal palazzetto si sentono le prime note del soundcheck e anche la voce del boss. Il boato che sale dagli spettatori in coda è davvero impressionante e mi fa capire che più o meno tutti hanno vissuto le mie stesse ansie e adesso danno libero sfogo alla loro eccitazione. La grande paura è passata, sto per entrare a vedere per la prima volta quello che diventerà il mio cantante preferito, ma quello che ancora non so è che questo concerto, nel giorno del mio 22esimo compleanno, è destinato a cambiare, seppur di poco, la mia vita. Io sono probabilmente una persona abbastanza posata, però per Springsteen ho fatto cose che addirittura nel circolo degli amici di Varese si passano la voce e poi vengo a sapere che parlano dei miei viaggi fatti all'improvviso per tornare in Italia dagli Stati Uniti per vedere un concerto. Assisterò ad una performance epica, visione non obiettiva, di fan ovviamente, di più di 4 ore e ne uscirò distrutto fisicamente ma rigenerato emotivamente. E Bruce Springsteen diventerà per me non solo un riferimento musicale, soprattutto dal vivo, ma una specie di valvola di sfogo. 30 anni dopo e con più di 30 concerti del boss alle spalle, posso sicuramente affermare che la mia passione per Springsteen ha funzionato come utile elemento di sana follia nella vita di un posato e responsabile uomo ormai di mezz'età. Ho trasvolato oceani, fatto code all'alba, preso pioggia e freddo per vedere lui in concerto. E mi sono fatto la fama del folle tra i colleghi e amici non malati come me del boss. Ma ho anche assaporato piaceri ed emozioni uniche che ripagavano puntualmente i miei sforzi, mantenendomi forse un po' più giovane. Non lo sapevo, certo, su quel pullman che viaggiava verso Zurigo, ma certamente lo so adesso che aspetto con ansia i 4 concerti a cui andrò quest'estate. Tutti noi abbiamo bisogno di una passione, qualunque, per sfuggire almeno qualche volta dalla nostra normalità. Io l'ho trovata quel giorno, l'11 aprile del 1981, a Zurigo. Ho letto il racconto di Davide mesi fa, quando ovviamente sapevo bene chi fosse Springsteen, però non l'avevo mai visto dal vivo. Io non sono proprio un fan assoluto di Springsteen. A pensarci bene, non sono un fan assoluto di quasi niente. Cioè, non c'è niente, o almeno ancora niente. Non ho ancora trovato qualcosa per cui fare code di ore sotto la pioggia o al freddo e per cui fare voli oceanici. Mi piace ovviamente, come credo piaccia a gran parte delle persone che conoscono almeno i suoi classici, no? Da Born to Run a Dancing in the Dark. Però, visto che mia mamma me lo chiedeva da qualche tempo di accompagnarla a vedere un suo concerto, quando in primavera ho letto il racconto di Davide, ho pensato che questa era l'occasione buona per portare lei e per capire cos'era quella specie di vena mistica che scorre nelle vene delle centinaia di migliaia di persone che frequentano i suoi concerti ovunque nel mondo. Quindi ieri lei è venuta a Milano, per la prima volta è salita in Vespa con me, per la prima volta è entrata allo stadio di San Siro e per la prima volta abbiamo visto Springsteen dal vivo. Erano le 7 quando siamo arrivati allo stadio. Abbiamo fatto tutta la rampa di scale e siamo arrivati al secondo anello rosso. Eravamo seduti comodi e intorno a noi lo stadio iniziava a riempirsi. Il cielo era ancora chiaro quando sul palco sono apparsi i musicisti della E Street Band e subito dopo Bruce Springsteen. Io in quel momento ero distratto dalla signora sessantenne tedesca davanti a me e dal marito magro, che sembravano pronti per una puntata di Derrick, ma non certo per un concerto rock, quando all'improvviso ho sentito lo stadio tremare, fuori e dentro di me, nelle orecchie e fino in fondo allo stomaco. Sugli schermi è apparso Springsteen, tutto vestito di nero, con la solita faccia da americano di provincia, un po' storta, ma simpatica, di quelle persone con cui vorresti fare quattro chiacchiere per sapere come la pensa lui sulle cose. Fa un saluto in un italiano incomprensibile, in cui dice cose tipo «Malano, ciao Malano, San Siro, bello posto, San Siro». E poi inizia a cantare. Questa è una canzone per tutti che stanno lottando. E la prima cosa che penso è che non può cantare in quel modo per tutto il tempo. Springsteen urla con tutta la forza che ha. Ciondola la testa intorno al microfono mentre grida tutta la sua forza, tutta la sua rabbia e tutta la sua speranza. E tutto San Siro lo fa con lui. Ecco, lì mi accorgo che i due tedeschi, quelli dell'ispettore Derrick, si stanno trasformando lentamente ma gradualmente in due persone diverse. Intanto Springsteen non la smette di urlare e correre da una parte all'altra del palco, che è lungo praticamente come tutto il campo di San Siro. Il cielo si fa sempre più buio e i decibel sempre più alti. Le orecchie mi fischiano e non riesco più a stare seduto. Della prima ora di concerto conosco sì e no una canzone, ma non è importante. Mano a mano che passa il tempo, il boss diventa sempre più sudato, sempre più forte, sempre più invincibile. La gente da sotto il palco gli porge i figli come se fosse il papa o un curandero sudamericano. Lui li tira su, li fa cantare e loro conoscono a memoria tutti i brani in inglese. E non si ferma mai, non fa mai una pausa tra un pezzo e l'altro, mai. Finisce uno, urla one, two, three e parte subito con l'altra. Il suo batterista con la faccia da impiegato picchia come un fabbro, anche se c'ha 60 anni passati. Intanto la tedesca di Derrick e il marito sono trasfigurati, anche loro. Non sono più le persone silenziose e rigide di prima, ma soprattutto io non sono più così diverso da loro. Ci tocchiamo mentre balliamo in piedi sugli spalti, ci sorridiamo e ci stupiamo nel farlo perché capiamo che ci vogliamo bene. O meglio, io me ne stupisco perché loro sono springsteeniani di lungo corso e quindi lo sanno che questo è l'effetto che fa il boss. Fa quell'effetto lì, che tutti lì dentro a un certo punto sono amici. Tutti hanno qualcosa in comune, che poi è la musica di quel tizio lì del New Jersey sul palco e qualcos'altro, non lo so, l'amore credo, ma a quel punto non lo so più nemmeno io. Suona per oltre 3 ore, alla fine lui sembra meno sfinito di noi. A un certo punto finge di non farcela più, si butta per terra, si siede, invece si alza e riattacca, fa 6, 7, 8 bis, in quello che non è un concerto, è una sola, lunga, interminabile canzone. Una liturgia rock che fa proselitismo semplicemente con un muro di suono che ti arriva addosso. E il suo sacerdote è lui, là, sul palco. E ti fa simpatia e ti fa piangere, e lui non la smette mai di sorridere, mai, anche mentre urla come un pazzo. E a un certo punto capisco che cosa sta succedendo a lui e cosa stanno facendo tutti gli altri, me compreso. Stiamo facendoci del bene. Sentiamo che quello che dice lui, quello che canta, quello che suona, ci fa stare bene perché parla di fiumi che scorrono, di buio in fondo alla strada e del destino di correre fino alla fine. E poi, a un certo punto, anche se non è l'ultima canzone nell'ordine, è come se lo fosse. come se fosse la prima e l'ultima al contempo. Lui attacca a cantare, quello per cui da bambino io lo conoscevo, con una bandiera americana sulle spalle. Canta Born in the USA, la canta come se fosse la sua ultima possibilità, il suo unico destino. Mentre lui lo fa, abbraccio la signora tedesca e capisco che anche se non lo sappiamo, io sono born negli USA, lei è born negli USA, tutti noi siamo born negli USA. Giù all'ombra del penitenziario, fuori tra i fuochi di gas della raffineria, sono da 10 anni per la strada, nessun posto dove correre, non ho nessun posto dove andare, sono un papà collaudato negli USA, sono nato negli USA. Forse non era il caso di tradurre in italiano, perde un po' in italiano. È meglio così, è meglio che la canti lui e che forse un po' non si capisca. Si parla dei concerti che vi hanno cambiato la vita in qualche maniera, se ha senso dire che un concerto vi può cambiare la vita. Pare che ce l'abbia avuto per Davide, poi gli chiedo meglio il perché. Ve ne leggo alcuni. Concerto dei Clash, Piazza Maggiore a Bologna, 81, gratis, Marco. Gaber 2008, Torino, Elena. Patti Smith, Bologna, 1900 e rotti, l'anno non lo ricordo, ma Because the Night, a metà concerto, da pelle d'oca ancora adesso, ho 53 anni. Ermanno, Spandau Ballet, 87, in quell'occasione ho conosciuto un'amica molto intima. C'è stato un sondaggio anche in redazione e si è scoperto che ognuno ha il concerto che si merita, perché gli sia cambiata la vita. Paolino Corleone a Samuele Bersani nel 2000, Tiziano Bonini a Nirvana nel 93, ma ne hai sempre parlato malissimo dei Nirvana, o sbaglio? È vero che ne parlavi malissimo. Mentre Margherita Ina ci ha detto: sono troppo giovane per avere un concerto che mi ha cambiato la vita. E allora andiamo da uno che a 22 anni ha capito che la sua vita era leggermente cambiata, che è Davide. Pronto, Davide? Ciao Matteo. Come stai? Bene, bene. Senti, tu quindi c'eri anche tu ieri? Sì, c'ero anch'io, ovvio. Cioè, avrei mancato quel concerto. E questo, diciamo, è il tono pacato con cui gli springsteiniani sono: sì, c'ero anch'io, adesso ne farò altri 4, poi pensavo di andare a Tokyo a vedere quello. Senti, ti sei visto quello di Milano, quindi vai a Firenze? Vado a Firenze, poi vado a Trieste e a luglio vado di nuovo a Zurigo. Ah, perché torna a Zurigo? Torna a Zurigo nello stadio, non nel palazzetto, ma perché era tournée estiva. Senti, allora, torniamo un attimo a Zurigo. È la prima volta che ci torni da allora? No, ne ho visto un altro. A Zurigo? Sì. Niente, speravo ci fosse un cerchio che si chiudeva, invece sei molto più avanti. Cosa vuol dire che ne hai visti oltre 30? Dimmi qual è il posto più lontano che hai raggiunto. Beh, allora, diciamo che dall'Italia il posto più lontano è stato New York. Siamo andati a New York 2 volte, io e mio fratello, la seconda volta c'era anche mia sorella e mia moglie. Poi ne ho visti altri, ho visto Madrid, l'ho visto a Vienna, Barcellona. Senti, invece in che cosa dici che un concerto, e di conseguenza lui, immagino, quello che rappresenta, la musica che fa, ti ha cambiato la vita, anche se in una piccola parte, ovviamente? No, ma infatti so se mi ha cambiato la vita, però sicuramente sono contento di essere riuscito a vivere questa parte di questo cantante, cioè di essere in tempo per vedere lui, per diventare suo appassionato, perché come ho provato a scrivere, è proprio quell'elemento un po' di follia, di pazzia, che anche appunto anche oggi al lavoro ne discutevo, ne parlavo con i miei amici. E cosa gli dicevi? Cosa dici? Come spieghi a uno che conosce Bruce Springsteen, che non l'ha mai visto, che cosa è stato il concerto di ieri, ad esempio? Ma ormai ho imparato a non pensare di riuscire a spiegarlo. Ok. Nel senso che, come probabilmente hai dimostrato tu col tuo racconto, o lo vedi oppure è difficile spiegarlo. Senti, tu cosa fai nella vita, Davide? Dunque, io sono un dirigente di una multinazionale dell'informatica, quindi... Sei al lavoro, quindi, in questo momento? Sono a casa, ma lavoro da casa. Sai, ormai la mobilità è quella che guida. Ok, e quindi a Firenze che giorno è? Firenze domenica, e Trieste lunedì, quindi lunedì e martedì prendo ferie per... Giustamente. Vabbè, Davide, senti, io ti ringrazio perché per una volta, come ringrazio tutti di aver scritto e di essere qui, però perché in realtà per una volta un racconto mi ha spinto a fare una cosa, e quindi oltre alla volontà di mia mamma di andarci, ringrazio te perché ho detto lo devo vedere, perché insomma altrimenti non si spiegano un sacco di cose. Grazie davvero, Davide. Per sempre ascoltare le madri. Ciao, grazie Davide. Ciao Matteo, ciao. Ciao, grazie a te. Genesis 1982, Roma. Se non mi portava mia mamma, io allora a 15 anni sarei andato a piedi piedi da solo da Ciampino. Mia mamma è entusiasta. Voi siete qui. Davide ha esattamente la faccia che ha la sua voce. Andate a vederlo sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. È un signore di 50 anni, in forma, forse con qualche chilo in più, forse. Nella foto indossa una camicina azzurra legata con il bottone fino sotto il collo, perché evidentemente è abituato al lavoro. Ha degli occhiali da sole, ha i capelli corti, ha la faccia sorridente ed è in un posto di vacanza, direi. Alle spalle ci sono colline, vigneti. Ecco, devo dire, riconfermo che non l'avrei mai detto prima, ma le persone che erano al concerto di Bruce Springsteen ieri, la maggior parte avevano la sua faccia. Si parla dei concerti che vi hanno cambiato la vita e ce ne sono... Allora, vanno fortissimo, se dovessimo fare un sondaggio. Bruce Springsteen, U2 e Pink Floyd, più o meno. Bruce Springsteen, Lione, 1985. Poi Eagles, prima volta in Italia, Lucca, 14 luglio 2001. E poi ancora i Caius, Reggio Emilia, 96, che mi dice Tiziano essere hard rock, heavy metal, più o meno. Metallica, Pink Floyd a Venezia, 15 luglio 89. Ho compiuto 18 anni con 250.000 persone. Leo da Modena. Elio e le storie tese, maggio 1990 a Roma. Il primo di quasi 100 concerti degli Eli. A tutt'oggi, Riccardo. E poi qualcuno ha avuto la fortuna di vedere a New York Jeff Buckley il primo gennaio del 1996. Andrea, era ancora vivo nel 96 Jeff Buckley, quindi quando è morto? Margherita, mi guardi quando è morto Jeff Buckley? Forse sì, prima del 2000 comunque. Police Palalido, Tool, 17 settembre 93. 349-238-6666 oppure 800240024. Aspetta, prima della telefonata c'è un bel messaggio che dice: Antonio, ci sono due tipi di persone, quelli che amano il boss e quelli che non l'hanno mai visto dal vivo. Andiamo a Roma a sentire Debora. Pronto, Debora? Ciao, Matteo. Ciao, come stai? Bene. Dove sei? In macchina a cercare parcheggio, quello che si fa a Roma di solito, insomma. Certo, senti, dimmi, raccontami, tu hai visto il concerto degli U2, quando e qual era le tue condizioni, quali erano? Allora, ottobre 2010, comprati i biglietti un anno prima e fino all'ultimo non sapevamo se andare perché ero incinta di 8 mesi praticamente. Quindi in pratica tu hai comprato i biglietti, dopo un paio di mesi sei rimasta incinta? Poi capita, Debora, andare. Non ti devi discolpare, sembra che tu dica, sai, è successo, sei rimasta incinta. Sì, è successo, non lo sapevamo. E avevi, beh, di solito funziona così, di solito, e avevi una pancia di 8 mesi, quindi era grossa. Sì. E dove eri, nel prato? Eravamo lì alla sicurezza e ci facevano passare, però è stato comodo. Eri nel prato? No, avevamo preso, per fortuna avevamo preso poi la tribuna. Senti, però... cosa ti ricordi del concerto, Debora? Il fatto che non ho potuto ballare, le prime note di All I Want Is You, lì è stato proprio le lacrime agli occhi per la prima volta, penso. Senti, bello, bello, bello. Ma scusami, fammi capire, tu sei stata, eri U2 da sempre o sì, lo sei diventata? Sì, però era il primo concerto, perché per diversi motivi non sono mai andata, ho sempre rimandato. Quando ho comprato il biglietto, di tanto succede qualcosa per cui non possiamo andare, e ho detto oddio, fino all'ultimo, cioè, abbiamo rischiato. Quanti figli hai? 2, di cui uno ti sta ascoltando con l'auricolare. Benissimo, allora saluto e in bocca al lupo. Ciao Debora, grazie. Ciao Matteo. Ciao, grazie, buona giornata. Ciao. Andiamo a Bergamo da Luciano. Pronto Luciano? Pronto. Buongiorno, come stai? Bene, tu? Tu hai un po' la voce da concerto di Bruce Springsteen. Cioè No, c'ho la voce da fumatore. cosa fai nella vita oltre a fumare, Luciano? Oltre a fumare sono un imprenditore, piccolo imprenditore. Faccio agente di commercio, vendo le bombole, per essere preciso. Le bombole? Bombole gas industriali, quelle ad alta pressione. Roba grossa, quindi non le bombole quelle per il fornello a gas. No, quelle per il fornello a gas. No, roba che importiamo dall'India, dall'America. Senti, perché si importano le bombole dall'India? Si importano le bombole dall'India perché è un prodotto, insomma, tecnologicamente abbastanza avanzato. E in India hanno prezzi migliori. Ok, banalmente. Senti, Luciano, dimmi qual è stato il concerto che ti ha cambiato la vita. È stato il concerto, vado un po' indietro nel tempo. Vai, io vado al 78, sì. 1978, Londra, Earl's Court Theatre, David Bowie. Quindi, senti, era il 78 o 79? Era, no, io avevo 20 anni, 78. Senti, Qual è la canzone di David Bowie che ti viene in mente quando pensi a David Bowie? Io ormai le conosco proprio tutte, io avevo una malattia, fra l'altro ho visto 3 serie di fila, se stava lì un mese andavo un mese al concerto. Cioè lui ha fatto 3 concerti di fila uno dopo l'altro e tu avevi il biglietto per tutti e 3? No, io l'avevo per uno, però quando è finito il concerto sono andato in una profonda depressione perché era finito. E l'ho risolta il giorno dopo, abitavo fortunatamente a 200 metri dal teatro, sì. Mi sono fatto 3 ore di coda a comprare i restricted view, posti infami che divengono all'ultimo minuto, sì. Mi hanno dato 3 biglietti che era il massimo che davano, alla sera alle 8 sono andato fuori dal teatro, 2 li ho rivenduti e uno me lo ha quadruplo del prezzo acquistato. Luciano, qual è il prossimo concerto che vai a vedere? Ormai i concerti io lui l'ho visto 3 sere, poi li ho visto altre 2 volte a Milano, in Italia, però ormai a posto non così. Basta, ho dato. Luciano, ormai... ti ringrazio moltissimo. E dallo stadio di San Siro passiamo al chiostro del Piccolo Teatro di Milano, in un salto temporale e spaziale rocambolesco, dove Radio 24 insieme al Piccolo Teatro organizza tutti i sabati Pagine per il futuro, sono delle letture proprio nel chiostro di Via Rovello alle 17 tutti i sabati. Questo sabato, cioè domani, si intitola l'incontro Le avventure di Robinson Crusoe di Daniel Defoe, testimonial, cioè lettore Ivan Lobello. Sono condotte gli incontri sono condotti dal direttore di Radio 24 Fabio Tamburini. La cosa che vi chiedo, visto che questi incontri hanno a che fare con il libro di formazione che vi ha cambiato la vita o che vi ha segnato la vita, se avete voglia scrivetemelo, magari un piccolo racconto e ne facciamo una puntata. Voi siete qui, @radio24.it. A proposito del concerto che vi ha cambiato la vita, l'ultimo messaggio di oggi lo scrive Matteo. Manu ciao, G8 Genova luglio 2001, ascolto la radio di Confindustria ma la penso sempre uguale. Grazie a lui, grazie a Paolino Corleone, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. La sera di oggi era di Davide, parlava di concerti, quella di lunedì è di Nicola e parla di partite della nazionale. Ero piccolo, ma capivo che quella era la Seleção di Zico, Falcao, Cerezo e Socrates. Mia madre non rispose, era un po' nervosa. Continuammo a camminare quando, in prossimità della pompa di benzina, circa al 25esimo minuto, un altro urlo. Non c'erano dubbi. Il Brasile stava prendendo il largo e io mi trovavo in un quartiere popolato solo da brasiliani.